Marco, oggi parleremo di ecoturismo. Riusciamo a dare una definizione veloce di ecoturismo? L'ecoturismo significa immergere i sensi nella natura, liberi dalle distrazioni della tecnologia moderna, fondamentalmente per uno scopo, per scoprire dentro di noi un ego migliore di quello che viviamo nella vita di tutti i giorni. Oggi viaggeremo molto, vi daremo anche delle dritte. Tu il mondo lo conosci? Sì, ho viaggiato per 6 mesi l'anno negli ultimi 25 anni in 127 paesi del mondo. Ok, sei l'uomo adatto allora. La mina vagante di oggi si chiama Marco Moretti. Mine vaganti di Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia, queste mine vaganti, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, un paio d'ore insieme per raccontarvi storie di italiani che fanno poco rumore ma si fanno sentire. Questo è un po' il tormentone che utilizziamo per presentarvi queste altre storie. Anche voi potete interagire in diretta, potete farlo via SMS al 349-238-6666 per farlo via SMS, oppure attraverso i vostri messaggi, attraverso la chat in Facebook. Mine Vaganti di Radio 24 è la pagina ufficiale. Come sempre non sono solo in studio, con me infatti c'è un... non so come definirti, perché sintetizzare in poche righe il tuo curriculum è difficile. Fotoreporter, giornalista, ma soprattutto ideatore di un portale che è online da pochi giorni, da una ventina di giorni, ma è già un faro, credo che possa essere già un punto di riferimento per chi vuol viaggiare con uno stile diverso. Do il benvenuto a Marco Moretti. Ciao Marco. Ciao, grazie a te e buonasera agli ascoltatori. Allora, abbiamo una zanzara che ci sta tormentando qui in studio, infatti gesticoliamo molto e ridono dall'altra parte. Ci boicotta. Ci boicotta. Marco, tu giornalista e fotografo, un numero appunto oltre 120 nazioni che hai toccato, sfiorato in 20 anni di carriera? Sì, in 25 anni di carriera ho fatto reportage di viaggi soprattutto per le principali riviste, per quotidiani e anche per la stampa, per il magazine del Corriere della Sera, ma soprattutto per riviste di viaggi che mi hanno portato per 20 anni. Ho avuto la fortuna, perché diciamocelo, è anche una fortuna, non è solo un mestiere, poter viaggiare in tutto il mondo. Infatti, allora, poter viaggiare, già c'è l'invidia dei nostri ascoltatori, immagino, però poi credo che il giornalista, lo scrittore di viaggi, insomma, si divide in due categorie: chi si fa il viaggio e vabbè, torna a casa, ti dà le tre dritte, ristorante buono, dove dormire, cosa vedere, e poi c'è anche uno sguardo diverso, che è lo sguardo un po' antropologico, o quello che, non so, tu per esempio l'attenzione l'hai sempre portata verso l'ambiente, verso l'aspetto naturalistico. Io ho portato tantissimo l'attrazione verso l'ambiente, ma l'ho portata anche verso i popoli, devo dire. Non è... L'idea di fare questo portale mirato sull'ambiente è perché io credo che in questo momento, rispetto allo sviluppo del turismo, c'è bisogno di una svolta, perché il turismo è cresciuto, è l'industria che è più cresciuta negli ultimi 20 anni, è l'industria che ancora cresce in tutto il mondo nonostante la crisi, è un'industria che porta centinaia di milioni di persone a viaggiare ed è un'industria che purtroppo ha creato dei disastri ambientali di proporzioni enormi, e per cui credo che bisogna lanciare un allarme. E in questo senso ho deciso di aprire questo portale, che non parlava tanto dei popoli, a cui sono molto affezionato e devo dire spesso sono ancora, prima della natura, il primo movente dei miei viaggi, ma è quello di affrontare il discorso della natura, ma affrontare, raccontare i luoghi che ho avuto la fortuna di vedere, ma raccontarlo sempre insieme alla criticità del territorio, della fauna e dei popoli indigeni che vivono questi territori, che a volte sono trattati alla stregua dello zoo. www.ecoturismoreport.it è l'indirizzo di questo portale. Se avete domande da fare, se avete qualche luogo della terra che vi incuriosisce e volete qualche dritta, se c'è un modo diverso per viaggiare, siamo qua, insomma, per aprire un confronto anche attraverso i vostri messaggi. 349-238-6666. E Marco, prima di entrare nello specifico, perché voglio succhiare da te qualche itinerario, qualche consiglio, una curiosità: e per un viaggio racconta di più una fotografia o racconta di più quello che le parole possono dire, trasmettere? Io sono nato come giornalista perché sono molto affezionato alle parole, anche se sono diventato fotografo e capisco benissimo la capacità di comunicazione dell'immagine. Credo che vadano sempre di pari passo. La fotografia senz'altro ha una capacità di messaggio immediato molto forte, ma solo con le parole si può andare in profondità, solo con le parole si può denunciare che cosa avviene, solo con le parole si possono raccontare delle emozioni personali, che certo anche certe immagini, il famoso pathos che trasmette l'immagine, che è sempre quello che cerca un fotografo ed è la cosa più difficile in assoluto. Io ho fatto dei viaggi in cui alla fine, stando via 2 mesi, guardavo e dicevo sì, belle foto, ma quante ce ne sono con pathos? 2, 3? Su centinaia e centinaia. E quindi insomma è il giusto mix che è poi anche il segreto del tuo lavoro. Marco, adesso ti accompagno io a fare un viaggio e ti porto a camminare su un filo. Sulle sue guance il vento fresco della vetta della conquista, sotto le unghie alla terra di quando striscia. Le sue serate, le sue ferite, le donne amate poi dimenticate, dell'ambizione e della speranza. Lui è Nicolò Fabile, singolo è Solo un uomo, è un bel pezzo da ascoltare ma anche da guardare, vi appunto... Andate a vedere il video, l'abbiamo già caricato sulla nostra pagina di Facebook, ve lo suggerisco perché il protagonista è un giovane ragazzo dalla barbetta importante che passeggia nel cielo. Lui si chiama Andrea Loreni, è l'unico professionista funambolo italiano, tanti record e anche tante immagini. Ciao Andrea, benvenuto a Mine Vaganti. Ciao, buongiorno. Guarda, prima di intervistarti, prima di andare a capire cosa c'è dietro al tuo lavoro, regalaci anche tu un'immagine. C'è un'immagine che più di altri ti descrive, ti tratteggia quello che sei? Ma sai, il cielo e le volte che insomma sono riuscito a camminarci. È lì, quindi tra l'altro di solito in frac? Cioè sei sempre molto... No, però ho un abito, un gessato grigio per il giorno, invece un abito bianco per le traversate di sera con le luci. Ok, Andrea Loreni, funambolo, è funambolo vero, no? Questa parola tante volte viene utilizzata anche così in maniera errata. Tu invece di professione fai proprio questo, e cammini, passeggi sui fili. Sì, il mio lavoro e anche la mia passione è camminare sui fili, sul filo, il mio filo. Sul filo, e poi c'è sempre anche un altro filo che ti dà una mano perché ti sorregge, perché tutto ciò è fatto anche in sicurezza. E Andrea, ieri sera il tuo ultimo record, ma ce lo racconti subito dopo le informazioni per chi sta viaggiando. Mine Vaganti. Il suo record più famoso l'ha compiuto il 4 giugno scorso, un record di lunghezza, 250 metri tra i colli Penna e Billi, siamo in provincia di Rimini, al Festival degli Artisti, ma ieri sera a Lodi ha compiuto questa sua nuova impresa, sempre camminando su questo filo dalla piazza, di fatto dal terreno, fino alla cima del campanile, quindi una passeggiata inclinata. Com'è andata Andrea? Bene, un'ascesa importante, è andata bene perché sono qua a smontare, quindi è una fatica che... mi sono guadagnato, vuol dire che è andata bene. Ma perché c'è tutta questa parte anche di artigianalità, diciamo, no? Perché tu ti tiri i tuoi cavi, tu li costruisci, li provi, cioè ci metti proprio le mani. Sì, sì, è bella la parte appunto delle mani, no? L'uso delle mani prima, durante il montaggio, è una cosa che faccio io perché, diciamo, poi ci salgo io, però anche perché mi piace proprio mettere le mani nelle cose pratiche, no? Questa solitudine che provo lassù in alto è fatta grazie a molte mani e molte persone che mi aiutano. Tu sei a un lavoro molto fisico prima. No, ma infatti come ci si prepara a un'impresa? Perché di impresa insomma si parla, si tratta? Ma un po' tutto finisce per essere preparazione se lo fai nel modo giusto, perché la cosa da imparare è la concentrazione. Non puoi allenarti su fili sempre così inclinati o così lunghi, quindi non puoi provare nello specifico, devi imparare a gestire nuove situazioni ogni volta, questa è la sfida più complicata. Tu sei filosofo, sei laureato in filosofia teoretica. Sì, sì. Ecco, e quindi già la parola pratica è difficile, no? L'elemento pratico è difficile abbinarlo a un filosofo teoretico. E in più ti sei inventato questa professione, che è nata per caso? Ma guarda, io ho iniziato a fare spettacoli di strada un po' più contenuti, poi devo aver sviluppato un ego troppo grande per accontentarmi di spettacoli più piccoli. Allora, sono passato a questi qua, le grandi traversate, le grandi altezze che occupano spazi enormi e devi riempire tutto, no? Con la tua presenza devi arrivare il più lontano possibile per riempire la piazza e per arrivare alle persone. E poi forse teoria ne ho avuto abbastanza negli studi, quindi mi sono dato un po' alla pratica a allestire i miei cavi. Ho capito. Ilfunambulo.com è il tuo sito ufficiale. Sì. Allora, un po' un'altra fotografia, nel senso piedi scalzi, giusto, su questo cavo d'acciaio? Piedi scalzi, sì. Quando è inclinata così o con la pioggia, che è un po' pericolosa, io vado a piedi scalzi, che è più preso sul cavo. Ok. Un vestito elegante, perché comunque abito da sera, bianco, perché comunque stai facendo spettacolo. Un bilanciere, che questa asta lunga quanto? Questa lunga 6 metri e mezzo e pesa 18 kg. È fondamentale, senza... È fondamentale perché i cavi così lunghi comunque il cavo si muove, invece quindi dovessi trovare l'equilibrio esclusivamente col corpo, inizia a muovere il corpo e muovi il cavo. Invece col bilanciere muovi il bilanciere, tieni il corpo fermo e riesci a trasmettere al cavo la calma, quindi è importante essere abbastanza calmi prima di partire, così da, se sali nervoso il cavo ti risponde in maniera nervosa, quindi diventa tutto più complicato. Ok, e misure importanti ieri, però quella eclatante di Penabilli, quindi 250 metri di lunghezza, 90 metri d'altezza, sì. Si ha tempo di avere paura? Sì, sì, la paura, di quella c'è tempo di averla. Altre sensazioni, altre emozioni durante la camminata è meglio che le trattieni... Per farle esplodere dopo. Migliaia di occhi che ti guardano, perché tante sono le persone che ti seguono, e tu invece da lassù cosa guardi? Generalmente il cavo. In alcuni casi riesco anche a dare un'occhiata in giro a vedere le persone. Comunque ieri sera qua, siccome ero molto centrato per la questione dell'inclinazione, guardavo dritto al cavo, un po' vedevo sotto la gente, comunque l'ho sentita quando... Nei momenti di pausa, gli applausi sono arrivati, è un sostegno importante, no? Ti senti un po' meno solo. E capita anche di cadere? Capita, a me fortunatamente il spettacolo non è mai capitato, in prova che magari provi delle cose nuove o sempre nelle condizioni peggiori, proprio per essere pronto a fronteggiare nuove cose, è capitato, però il spettacolo per ora no. Okay. Comunque una caduta, insomma, sarebbe... abbastanza pericolosa comunque. Perché sei in sicurezza, però è sempre mi rimani appeso lassù. Sì. Ok, no, non te lo stiamo augurando, però insomma l'avrei messo in conto. E hai già una prossima misura? Hai già un prossimo traguardo? Ma dunque, il prossimo avrò degli spettacoli. Cerco di non darmi traguardi nel senso di cose da battere, ma di modo di lavorare con qualità. Adesso saremo a Pordenone il 30 e saremo a Belgrado il 25 agosto. Sei più equilibrato coi piedi per terra o coi piedi su un cavo? Così come persona? No, coi piedi sul cavo, perché sì. Lì in qualche modo devi esserlo per forza, per terra puoi anche inciampare. Invece devi stare attento. Grazie davvero, Andrea. Allora, ilfunambulo.com per conoscerti meglio. Complimenti davvero per la tua attività. Grazie. Unica, rara e molto bella. Ciao Andrea. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Andrea Loreni, il funambulo, l'uomo che viaggia. Anche questo è, Marco, credo sia un viaggio abbastanza ecosostenibile. Ah, di sicuro. Di sicuro non produce CO2. No, quello no. E che bello, stavo guardando prima sul tuo portale, perché al di là degli itinerari ci sono delle dritte sul come avere un impatto minimo, no? Durante le vacanze c'è anche un decalogo e c'è anche un consiglio che mi ha fatto sorridere, che è quello per esempio di non usare il bagno in aereo ma usarlo in aeroporto. Lo notano tutti. Sì, perché devo dire, un terzo delle email che ho ricevute parlava di quello, erano tutti colpiti dal fatto che quando si è a 10.000 metri e si tira lo sciacquone si consumano 0,75 litri di cherosene, cioè come a fare 10 km con la macchina. Quindi nei viaggi medi dici insomma il bagno, i viaggi lunghi è impossibile, ovvio. Ma nei viaggi andate in bagno prima di salire sull'aereo. Ecco, un po' quando si danno questi consigli, anche al di là di questo che è particolarmente curioso, basterebbe un po' di buonsenso. Sì, difatti alcune, ad esempio nel decalogo che segue il pezzo sui danni provocati dall'ecoturismo, perché ahimè Allora, se nei parchi degli Stati Uniti vanno 350 milioni di turisti l'anno, se sulle Alpi abbiamo superato da 10 anni 100 milioni l'anno, cioè questi turisti che sono attratti, saranno tutti in buona fede attratti dalla natura, però un impatto lo creano, perché vanno in bagno, perché arrivano con le macchine, perché mangiano, perché portano rifiuti e tutto quanto. Allora, segue un decalogo che una persona ragionevole, per una persona ragionevole non è necessario, ma siccome i danni ci sono, evidentemente non tutte queste persone sono ragionevoli, per cui può sembrare pedanteria, ma è meglio ricordarlo. Dai, accompagnaci a fare un po' di ecoturismo. C'è un itinerario così che ci vuoi consigliare? Beh, uno dei posti a cui sono più affezionato, perché ho vissuto 20 anni fa per un lungo periodo in Australia, è l'isola dei Kangaroo Island, l'isola dei canguri. È una sorta di Galapagos degli antipodi, al largo della città di Adelaide, ed è un'isola grande la metà della Corsica, dove è incredibile la full immersion. Ci vivono pochissime persone, ma 3.000 persone credo, così poco meno, ma è incredibile l'immersione faunistica, perché campeggiare, ad esempio, io ricordo sempre il mio campeggio nel parco nazionale, nell'area ammessa dove c'erano il posto per il fuoco e tutto quanto, dove non riuscivamo a cucinare perché gli saltavano gli opossum nella pentola, perché eravamo circondati dai canguri che ci battevano sulla spalla per avere qualcosa da mangiare, non si riusciva a aprire la macchina perché si infilava dentro animali. Ed è un'isola dove si vede tutta la fauna australiana e contemporaneamente una parte della fauna antartica, perché è rivolta verso l'Antartide, e c'è una spiaggia con i leoni marini, ci sono una spiaggia dove approdano i pinguini, delle rocce con le foche, per cui è molto molto singolare. E per i birdwatcher 270 varietà di uccelli in un'area alla metà della Corsica. E ci si può andare a impatto minimo? Ci si può andare, lì sempre. Allora, diciamo che l'Australia è molto avanti in questo senso, e Kangaroo Island è in gran parte parco nazionale, per cui si è obbligati per molti aspetti. Poi certo la responsabilità individuale, perché i ranger possono controllare, ma cioè, poi c'è sempre chi dà da mangiare all'orso yogi. ecoturismoreport.it, la testata giornalistica no profit, questo portale su un turismo nuovo e alternativo, ideato da Marco Moretti. Marco, in Groenlandia sei stato? Sì, sono stato in Groenlandia. Paese molto difficile e quasi impossibile da viaggiare a basso impatto, devo dire, perché ci si sposta, cioè non ci sono strade. Allora, se sei alla Meisner puoi girarlo in kayak o con slitte, cose del genere. Se sei un comune mortale, da un posto all'altro devi prendere l'elicottero, oppure soluzioni a impatto infinitamente inferiore. C'è una crociera, la crociera di Disco Bay, che risale la parte verso il Canada, diciamo, meridionale della costa, fermando in Village Inuit. Comunque viaggio costosissimo, difficile. Beh, ci portiamo noi in Groenlandia, anche se solo radiofonicamente. Yeah, yeah, yeah. Sono musiche tradizionali della cultura Inuit, e lui tra gli Inuit ci vive. Siamo in Groenlandia, nella parte danese. Lui viene da Bolzano, ma da una quindicina d'anni vive in Groenlandia, dove gestisce una guest house, una piccola azienda turistica, e si chiama Robert Peroni. Ciao Robert. Ciao Federico. Ciao, che ore sono lì? Adesso sono le 1:30. Ok, allora, insomma, sentiamo la tua voce, ma vogliamo anche i tuoi occhi. Cosa vedi? Raccontaci cosa c'è attorno a te. Cosa vuol dire vivere in Groenlandia? Ci riesci a descrivere l'ambiente che ti circonda? Ma se io guardo fuori dalla finestra adesso, vedo 5, 6, 7 ghiacciai, una catena di bellissime montagne, e giù nel fiordo, sotto c'è il fiordo, sotto le montagne, e vedo tanto ghiaccio polare e ghiaccio di fiordo, o due iceberg, due montagne di ghiaccio. Insomma, tutte belle cose, molto bello. Sì, ti stiamo invidiando. Robert, e cosa ci fai tu lì? Ma io sto qui e faccio il turismo, prima ho fatto spedizioni, poi sono rimasto qui, adesso ho un'azienda, ho creato un'azienda e facciamo turismo. Mm-hmm. Cioè noi abbiamo ospiti normali d'albergo e abbiamo ospiti che fanno poi anche grandi uscite, spedizioni, facciamo viaggi in barca, abbiamo delle barche, abbiamo d'inverno cani da slitta e andiamo in giro, portiamo la gente e costruiamo un'azienda specialmente anche per assistere un po' il mondo quotidiano qui. Il popolo è molto povero, è diventato povero e credo che abbiano proprio bisogno di un aiuto, di una via nuova. TheRedHouse.info è il sito della tua azienda. La Casa Rossa, come mai questo nome? Per caso, perché era rossa quando ho comprato una piccola casetta al 3x4 metri ed era rossa e non sapevo cosa dire. Tutti hanno detto ma che roba te lassù e in quella casetta rossa. È rimasta così, è tutto lì, niente di speciale. Ok, Robert, hai accennato a questa cosa, noi stiamo parlando di turismo sostenibile, anche tu hai un progetto molto importante. Ci fermiamo un minuto, le informazioni del meteo qui in Italia, non in Groenlandia, quindi a te poco interessano, e poi torniamo subito da te. Mine vaganti. TheRedHouse.info è il sito ufficiale dell'azienda di Robert Peroni in Groenlandia. Abbiamo già pubblicato il sito nelle nostre pagine di Mine Vaganti di Radio 24 in Facebook e abbiamo messo anche il video con le musiche Inuit perché ci piacevano molto. Robert, ma intanto una curiosità, chi sono i turisti che vengono da te? Vengono anche dall'Italia, vengono da tutto il mondo o è una sorta di turismo locale? No, il turismo locale non esiste qui, però il turismo internazionale, abbiamo da Hong Kong, abbiamo dai Taiwan, abbiamo anche dall'Italia, non abbiamo tanti turisti perché siamo una casa piccola, ma arrivano da tutto il mondo. Mm-hmm. E ci accennavi prima che a fianco alla tua attività c'è anche questo progetto di recupero soprattutto di alcolizzati, se non ho capito male, che è una grossa piaga sociale lì. Sì, è un grande problema, questo è vero, però il problema enorme è proprio che è nato appena 2 anni fa. 2 anni fa la Comunità Europea ha deciso di abolire tutto il mercato dei prodotti della foca e noi viviamo qui della foca, cioè la foca è tutto, la foca è carne, la foca è vita, la foca è la verità e adesso è abolito tutto, cioè il mercato è completamente rovinato, il Greenpeace l'ha rovinato e adesso siamo agli estremi perché abbiamo un'importazione al 100%, l'esportazione al 0,0 e questo vuole dire naturalmente che arriva anche alcol, arriva il suicidio, arrivano dei problemi enormi e è una terra bellissima, cioè l'unica possibilità per il futuro qui, vedo al momento, è proprio il turismo. Mm-hmm. Ma esiste ancora la cultura Inuit? Cioè gli Inuit vivono ancora con le loro tradizioni o c'è stata una contaminazione che ha cambiato quelli che sono i loro usi e costumi, magari anche in bene per certi aspetti, figuriamoci, però poi a volte queste contaminazioni portano ad annientare, a cancellare quella che è una cultura. Giusto, sì, no, la cultura c'è ancora, abbiamo qui tanti che vanno ancora un po' a caccia, quello che rimane ancora, che hanno una certa cultura Inuit o Ivi, noi ci siamo Ivi, non Inuit, comunque groenlandese e locale, perché loro si chiamano Tunumer è proprio il posto della Groenlandia orientale, è un posto molto diverso dall'altra Groenlandia che conosciamo dal tipo turistico. Questo posto qui è molto molto isolato, il più bel posto per me, e c'è ancora cultura, però ormai sta anche sfaldandosi tutto e pian pianino si dovranno adattare all'altro mondo, anche se è molto molto difficile. Mm-hmm. Robert, le segui le vicende italiane lì dalla Groenlandia? Ti manca un po' il paese d'origine? No. Ogni tanto penso all'Italia, logico, mia figlia vive a Mantova e ogni tanto ritorno anche per 2-3 giorni a Mantova e ho degli amici in Italia, Verona, da tutte le parti, però non mi manca, no, assolutamente no. Qui c'è un posto bellissimo e fantastico, mm-hmm. È proprio un sogno che avevo sempre, non vivere qui in Groenlandia non era un sogno, ma in un posto così fantastico, pieno di ghiacciai, pieno di ghiacci, pieno di mare, è tutto azzurro e non è freddo, e c'è tanto sole, noi abbiamo sole quasi come in Africa, e non è così caldo ma comunque abbastanza caldo. Okay. No, io mi trovo molto bene, non sono più per nient'altro. Ok, ci hai convinto. Qua con me in studio c'è Marco Moretti, che è un fotoreporter, un giornalista di viaggi, appunto, che ha ideato anche questo sito ecoturismoreport.it. Credo che possiate avere comunque dei link in comune, quindi magari poi vi scriverete anche. Va bene, Robert? Sì, va bene. Okay. Ciao, grazie. Okay. Grazie davvero e buona stagione. Lì alta stagione adesso? Sì, adesso abbiamo un'altra stagione, invernale e adesso abbiamo quella estiva e va tutto bene. Abbiamo tanto ghiaccio quest'anno, abbiamo la banchisa polare che è talmente forte come da 30 o 40 anni no. Okay. Una cosa impressionante, siamo quasi imprigionati qui, ma è bellissimo. La gente proprio ogni giorno fuori dalle finestre che guarda questo ghiaccio polare, ormai da decenni non è così forte. Ci hai convinto? Grazie Robert, ciao, buona estate, ciao ciao. Ciao Federico, grazie anche a te. A quelli che han creduto nella velocità, mi piace il domani e le novità. Insomma mi piace che un'altra estate arriva. Fare le valigie. Facciamo anche noi le valigie insieme a Luca Carboni, le facciamo insieme anche a Marco Moretti, 25 anni di giornalismo, di viaggio, che ha tradotto in questo portale, per ora no profit, un'esperienza nuova anche. Mi dicevi che ti sei guardato intorno e non hai trovato nulla di simile. Sì, mi sono guardato intorno e non ho trovato... Cercavo un'idea, detto fuori dai denti, anche per uscire da una situazione della crisi dell'editoria, cercare una via nuova di comunicazione. E mi sono guardato attorno tra siti di viaggi e cose del genere e ho pensato in questo sito di unire quelle che erano le mie specificità, per cui il viaggio, che è sempre stata la caratteristica principale, poi io ho scritto e continuo a scrivere di ambiente, ho scritto per quasi 15 anni di ambiente per la stampa, dall'effetto serra agli animali in pericolo di estinzione all'istruzione delle foreste, per cui, e sono sempre stato un ecologista, per cui ho unito queste cose insieme e ho creato questo sito che, devo dire, sono sorpreso perché in 20 giorni ho una risposta enorme sia di pubblico che di media, cioè, probabilmente perché è qualcosa di nuovo. Infatti sulle foche t'ho visto che un po' eri... No, sulle foche, anzi no, assolutamente, perché difatti se andate a leggere il pezzo sulla Groenlandia che c'è sul sito, parlo proprio del contrasto tra Greenpeace e gli Inuit e dell'impatto comunque bassissimo, perché se parliamo degli Inuit parliamo di un popolo che nell'estremo nord caccia ancora la foca con la tecnica dell'orso, cioè il buco. Loro si appostano dietro il buco come faceva l'orso, l'orso le azzannava, loro hanno un fucile con la fiocina per ucciderle, ma usano ancora quella tecnica. E parliamo di un posto, io sono vegetariano, ma non cresco nessun tipo di verdura in Groenlandia, ok? Per cui c'è stato un grosso contrasto tra Greenpeace. Tra l'altro io all'epoca avevo scritto un articolo che si intitolava La difficoltà di essere verdi per i neri, che non era solo riguardato agli Inuit, ma le popolazioni indigene che hanno un rapporto con l'ambiente che è molto diverso dal nostro. Io sono contrarissimo alla caccia, ma non sono contrarissimo alla caccia di popoli selvaggi nel buon senso della parola. Certo, certo. Okay? Fa parte della loro trovo insensata cultura. La caccia per, trovo insensato uccidere per divertimento, trovo insensato uccidere quando vai al supermercato per comprare il cibo. E, Marco, faceva anche sorridere prima parlare con questo bolzanino, con Robert, che insomma, bolzano, alto tesino, e ti diceva che era bellissimo perché era tra il bianco, tra i ghiacciai, tra la neve, no? Di fatto ingigantiva quello che è un po' il suo habitat locale, nativo. E portaci tu sulle Alpi, c'è modo di visitarle in maniera ecosostenibile? Certo, senz'altro. Le Alpi sono senz'altro la natura selvaggia più vicina a noi e più facile. Un trekking anche nelle valli, ad esempio, io amo tantissimo le valli meridionali del Cuneese, che sono la parte meno conosciuta e meno battuta delle Alpi, sia la parte cuneese che quella francese, dove c'è la Valle delle Meraviglie con delle splendide incisioni rupestri. E tra l'altro una zona in cui è tornato il lupo, che un assessore leghista del Piemonte adesso vorrebbe abbattere, perché qualche lupo ha mangiato qualche pecora, come se la funzione dei lupi non fosse quella di mangiare le pecore. Hanno visto che esiste anche un fondo per indennizzare gli allevatori, cioè se vogliamo reintrodurre il lupo, no? Comunque la cosa che suggerisco per chi, ad esempio, io cerco di rivolgermi sempre ai comuni mortali e non agli eroi, certo, no? Perché di eroi ce ne sono pochi, e di comuni, il nostro amico che vive in Groenlandia fa parte degli eroi, ovviamente, no? Cioè, ad esempio, trovo una cosa bellissima è il GTA, la grande attraversata delle Alpi, fatta non sulle vette, ma fatta a medio-alto livello, dormendo nei rifugi, attraversando queste valli stupende, verdissime, coi fiumi, con i villaggi ancora di pietra, come si trovano sia dalla parte francese che quella piemontese, no? Ed è un viaggio, tra l'altro, in periodo di crisi a bassissimo costo, perché si dorme in questi rifugi GTA, adesso non so il prezzo, ma cioè siamo sotto i 20 euro a persona di sicuro, no? Mm-hmm. No? Per cui per tutti, e non sono salite clamorose, no? Cioè sono 5-6 ore al giorno tranquilli camminando in mezzo alla natura. Sì, sì, con modalità anche particolari. Ho intercettato questa famiglia, per esempio, lo scorso anno, che viaggiava anche con gli asini per farsi dare, certo, una mano nel trasportare soprattutto i bagagli dei bambini. Certo, questo in Trentino c'è molto, ci sono dei viaggi con gli asini che dove non si cavalca l'asino. No, ma è l'asino che ti aiuta. Da Soma, esatto. Porta il bagaglio. E ti guida anche, perché lui non inciampa porta mai. Porta il bambino, se il bambino frigna, insomma. Ecoturismoreport.it è il sito ufficiale di Marco Moretti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Mine vaganti. L'imperatore Hirohito ha parlato alla radio arrendendosi agli americani, una sessantina di giapponesi sono venuti a togliersi la vita proprio qua per lavare con il loro sacrificio l'onta della sconfitta. Tokyo, così l'ho dipinta dalla cima dell'hotel Takanawa. Parliamo anche di viaggi oggi a Mine Vaganti, e parliamo anche allora di come questi viaggi possono essere raccontati e narrati. Con noi c'è Marco Moretti, lui è giornalista e fotografo, però c'è anche un'altra tecnica molto particolare per descrivere un viaggio, per lasciare traccia delle emozioni che si gustano durante un viaggio, ed è quella dei taccuini di viaggio. Proprio in questi giorni la Scuola del Viaggio, che è questa associazione appunto che si è data come missione quella di dare le giuste dritte a chi vuole aderire per spiegare come si può raccontare un viaggio, sta facendo una delle sue scuole estive in Sicilia, se non erro, e tra i vari studi c'è anche quello del carnet di viaggio, del taccuino di viaggio. In Italia c'è uno dei massimi esponenti di questa tecnica, è pittore e filosofo, e do il benvenuto a Stefano Faravelli. Ciao Stefano. Ciao. Sei in azione? Nel senso che... Sono appena tornato da un sopralluogo mirabolante sulla costa di Modica, dove c'è questa grande fabbrica di laterizi, tra le dune, il vento fortissimo, un mare verde straordinario. Mm-hmm. Domani mattina, prestissimo, porterò i miei allievi al loro primo incontro col paesaggio. Perché anche questa cosa è fantastica, una scuola estiva della Scuola del Viaggio, scuoladelviaggio.it per tutte le dritte, e ci sono allievi, sono studenti, sono giornalisti, sono persone comuni che sono lì per apprendere tecniche, per narrare non un eroi, viaggio. Non eroi, assolutamente, e, attraverso, nel tuo caso, il taccuino di viaggio, che di fatto cos'è? La pittura applicata al viaggiare? No, è il ménage à trois delle pochoirs francesi. La pittura è importante ed è primaria, ma la scrittura, insomma, ha forse altrettanto peso. E poi c'è l'apporto, l'oggetto trovato per via, il foglio di carta, la foglia, e l'insieme di queste cose. Il carnet di viaggio, il taccuino di viaggio è una di quelle tipiche soluzioni per cui 2 più 2 non fa 4 ma fa 8 e via per le serie Fibonacci in progressione infinita. Cioè è un accumulo energetico. Che detta così, però ecco, radiofonicamente se lo puoi far vedere uno di questi taccuini, cosa si concretizza? Radiofonicamente, allora, questo corso estivo ha tra i patrocinatori e sponsor la Moleskine, premiata ditta oggi milanese, che ci ha regalato questi taccuini detti Japanese, no? Sono sì. 2 metri erotti di carta pieghettata, quasi a imitare metaforicamente, mimeticamente un cammino, un viaggio. Questi quadernetti stanno in tasca. Alla fine dell'esperienza, su queste pagine noi registriamo il mondo come l'abbiamo conosciuto, quindi attraverso il disegno, appunto, attraverso la scrittura, eventualmente anche la fotografia. Voglio dire, non ci sono regole precise, chiunque può interpretare il mondo a suo piacimento. Certo, per me i grandi maestri del taccuino di viaggio sono i grandi autori della fine del XIX secolo, inizio del XX, alcuni grandissimi artisti, Delacroix in Nord Africa e Gauguin in Polinesia, tanto per fare due nomi, ma ce ne sono tanti altri. Alla base sta l'idea, secondo me davvero fondamentale, che l'approccio alla realtà mediato attraverso il disegno e poi successivamente la scrittura è in qualche modo una sorta di contraltare alla presa troppo oggettiva della macchina fotografica da sola. Beh, tutti torniamo dai viaggi chiudendo in una busta i biglietti dei musei, il sassolino raccolto, eccetera. Si tratta di far sì che questa cosa maturi e decanti in una sorta di grande riepilogo del creato in un oggetto piccolissimo. Certo, e suggerisco davvero a tutti i nostri ascoltatori di andare sulle nostre pagine di Facebook di Mine Vaganti, perché ho caricato il video dove tu presenti questo, uno dei tuoi ultimi lavori, che è Giappone, taccuini dal mondo fluttuante, che è veramente un documentario sul come nasce anche un carnet di viaggio, un taccuino di viaggio. E poi è bello vedere anche, io ho avuto la fortuna di vedere Stefano in azione, che insomma, se ai tuoi allievi vuoi darle dritte sul come raffigurare un fiume, prima gli butti dentro a quel fiume, cioè va vissuta l'esperienza prima che fotografata attraverso le parole, attraverso la pittura o attraverso una macchina fotografica. Sì, bravissimo, perché è un corso di carnet di viaggio, quindi il viaggio viene prima di qualunque altra cosa. Chi si aspetta un corso di pittura sbaglia, e del resto i miei taccuini non vogliono mai essere l'estemporaneo esercizio di un'abilità tecnica. Non mi interessa far vedere quanto sono bravo. Questo è l'album de croquis e lo sketchbook. No, a me interessa veramente narrare l'esperienza spirituale di un paese, e questa esperienza implica una presa diretta, io direi proprio una identificazione. In questo senso il Giappone ha una tradizione fortissima, come la Cina. Non si può dipingere un bambù senza prima essere di diventati bambù. Allora io dico, come si può raccontare un fiume senza essersi calati nell'acqua e averlo guardato eventualmente? È quello che mi propongo di fare in questi giorni. StefanoFaravelli.it è il sito ufficiale di Stefano per vedere tutti i suoi lavori e non solo. Ciao Stefano, in bocca al lupo col corso, insomma, divertiti. Grazie insieme ai tuoi ragazzi. Grazie agli ascoltatori. Ciao. E tu ti senti un po' bambù, Marco? Cioè, se devi raccontare un bambù, anche tu entri così tanto nell'oggetto. Sì. Comunque l'identificazione col luogo, con l'oggetto, con la pianta, con la situazione. Cioè, condivido le parole di Stefano, senz'altro. Sì, è veramente bello. Non è una forzatura. Non è una forzatura. Tanto, tra l'altro, tutti e due torinesi, ma non vi conoscete, non vi siete mai incrociati. No. Dove ci porti, Marco? Potremmo andare nel nord-est del Brasile? Sì. Anche perché io ho fatto 4 viaggi in Brasile, uno lunghissimo tanti anni fa, e la natura, si pensa sempre all'Amazzonia, il Pantanal, che è questa, la più grande paludo del mondo, nel Mato Grosso. Però c'è una zona nel nord-est tra il Maranhão e lo stato del Parnaíba, dove sono stato un paio d'anni fa, che mi ha veramente sorpreso in termini di natura, di paesaggio. Perché iniziamo a sud di São Luís de Maranhão, bellissima città coloniale, e troviamo i Lençóis Maranhenses, praticamente le lenzuole del Maranhão in traduzione, che sono un deserto di dune di sabbia bianche come il latte, e tra queste dune, che sono abbastanza alte, si formano degli stagni di acqua blu caraibica, con degli effetti nella stagione delle piogge sensazionali. Ci si va a piedi. Li si raggiunge con dei camion fuoristrada che portano molte persone, e poi si cammina su queste dune e si fa il bagno anche, per cui c'è anche molto piacevole, un paesaggio quasi lunare, incredibile. Da lì, usando i mezzi locali, che sono dei pulmini fuoristrada abbastanza pittoreschi, che passano qua, non si sa bene quando, ma si aspetta che arrivano sempre. Si segue la costa per parecchio tempo e si arriva a un certo punto a Parnaíba. Parnaíba è una cittadina, è un posto veramente fuori dal mondo, dove piove sempre, però si trova su un delta, il più grande delta del mondo, del fiume Parnaíba, dove si va in barca si va in barca tra mangrovie, uccelli, fino al mare, in delle sensazioni completamente fuori dal mondo. Ok, rimaniamo con queste sensazioni fuori dal mondo ed entriamo invece nel mondo reale, lo facciamo con le GR24. Noi torniamo subito dopo con Mine Vaganti. Mine Vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, queste mine vaganti. minevaganti@radio24.it, la nostra email. Se anche voi volete proporvi o se volete proporci storie, potete farlo anche via SMS al 349-238-6666. Stesso numero se avete domande per Alex Bellini. Ci collegheremo tra una mezz'oretta. Sta correndo la 36esima tappa della Los Angeles New York. Ieri, quindi, giro di boa, perché è la 35esima, quindi appunto a metà gara. Lo stiamo seguendo settimanalmente. Se avete domande da porgli in diretta, siamo qua, ripeto il numero 349-238-6666, oppure ci trovate sulle nostre pagine Mine Vaganti di Radio 24 in Facebook. Lì anche tutti i link e i video relativi agli argomenti che andiamo a toccare durante la puntata, come per esempio il sito di Marco Moretti, www.ecoturismoreport.it, un sito nuovo, è nato da una ventina di giorni, però già tanti accessi, già tanto interesse, anche perché ci sono, Marco, delle giuste provocazioni. Tu da 25 anni che racconti il viaggiare, il turismo, lo hai fatto viaggiando tu per primo in oltre 120 nazioni, e insomma non è tutto bello, non è tutto un mondo dorato, anzi è stato anche devastante il turismo. Il mondo è stato devastato, e purtroppo sono stati devastati dei posti bellissimi, uno per tutti Cancun, un disastro ecologico. E mettendo questo eco, poi a volte ci si pulisce anche un po' la coscienza, non a caso in homepage tu apri con un pezzo che dice: l'ecoturismo è un'attrazione fatale, ahimè, per l'ambiente, nel senso che bisogna anche stare attenti, no? Nascondendosi, certo, dietro a questo eco si rischia di fare più danni che altro. no, non è nascondersi dietro l'eco, ma è l'attrazione, il fatto che comunque tantissime persone, milioni, centinaia di milioni di persone siano attratte dalla natura. Consideriamo che in Nord Europa e nel nord dell'America, Stati Uniti e Canada, l'ecoturismo è il segmento che cresce di più nel turismo. Il turismo è il segmento economico che cresce di più nel mondo, per cui capiamo in che direzione andiamo. Per cui ovviamente tutte queste persone che arrivano in luoghi protetti perché fragili oltre che belli, devono essere educate o devono essere limitate in alcuni casi, perché in alcuni casi è già stato introdotto il numero chiuso ed è auspicabile, perché non possiamo portare, che so, un milione di persone in Groenlandia, mm-hmm, o all'Antartide. Certo, leggevo anche questo, per esempio, boicottare i safari umani alle Andamane, quindi certo, anche certo, questo è fare turismo ecosostenibile, cioè fare appelli, fare, certo, diventare appelli, in questo caso in collaborazione con Survival International, che è una delle organizzazioni ambientaliste con cui io sono collegato, e siamo collegati, se vedete, tutti gli articoli riportano link a uffici del turismo dove trovare informazioni di viaggio, ma sempre ad associazioni, organizzazioni ambientaliste che operano sul territorio per potersi informare su quelli che sono le criticità, i problemi del territorio, delle popolazioni indigene e tutto quanto. Per cui la mia meta è creare consapevolezza rispetto al viaggio, non fare propaganda a paesi, non dare solo indicazioni di viaggio. Che poi no, essere consapevoli, alla fine sono anche piccole cose che uno non ci pensa. Prima mi accennavi durante il GR al golf. Al golf, certo. Tra l'altro sport, io non ho nulla contro i giocatori di golf, che ho anche giocato ed è anche divertente, devo dire. Però il golf è nato in Scozia. La Scozia è fatta di colline verdi, piovose, dove non c'è stato nessun intervento. Ora, se si fa un campo da golf in Piemonte o probabilmente in Lombardia o in Friuli, l'impatto è basso. Se si fa in Svizzera lo ancora di meno, perché piove di più. Se lo si fa a Lampedusa, come qualcuno ha proposto, dove per 4.500 abitanti arriva l'acqua con le autobotti, è assolutamente improbabile, come improbabile i disastri che hanno fatto a Dubai, ed è assolutamente delirante quello che è successo in sud-est asiatico, Filippine, Malesia, Thailandia, dove sono stati costruiti campi da golf facendo dei disboscamenti enormi, facendo degli sbancamenti che hanno provocato degli smottamenti che hanno addirittura sommerso villaggi con decine di morti. Cioè, ora, tutto va fatto nel posto idoneo, cioè non bisogna demonizzare nulla, no? Ma bisogna avere un po' di testa, insomma, no? Cioè, non è che perché se i ricchi giocano a golf non è che risolviamo i problemi di una nazione creando un campo da golf in un posto assolutamente inidoneo. Sì. Vedi, insomma, adesso è un esempio, ripeto, è nulla contro i golfisti, anzi, però no, è questo, no? È come voler mangiare le fragole a Natale, è lecito, però poi devi sapere, esatto, quelle che sono le conseguenze. Marco, dai, chiudiamo, abbiamo un minuto con un itinerario, dove ci porti? Allora, la parte forse più bella dell'Africa, dal delta dell'Okavango, che è il più grande delta interno di un fiume, cioè un fiume che si schianta contro un deserto e crea una grandissima laguna piena di animali, di uccelli, di coccodrilli, di leoni, di elefanti. Da lì, seguendo via terra attraverso un altro parco nazionale, il Chobi, per sbucare nella voragine dell'Africa, le cascate Vittoria, il posto di Livingstone, tanto per capirci. Ma questi viaggi, insomma, ci hai dato bellissime suggestioni, uno se li può anche organizzare da sé, o tu comunque dai sempre il consiglio di appoggiarsi a chi di professione organizza viaggi? Allora, io ho viaggiato molto organizzato per lavoro, da solo ho sempre viaggiato non organizzato. Ok. Perché credo che, per me, ho 57 anni, ma comunque scendere in un posto che non conosci, dove devi affrontare la realtà, mi dà ancora un bello scatto d'adrenalina, devo dire, non è ancora la cosa migliore del viaggio. ecoturismoreport.it, appunto, il portale di Marco Moretti, attraverso il sito potete conoscere meglio anche lui. Ciao Marco, grazie davvero per aver viaggiato con noi e per averci fatto sognare. Ciao, grazie a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Proprio ieri l'ho lasciato, poi mi ha detto sei carino, ma è scappata con un negro che si fa chiamare Pino. Non me la danno mai, non me la danno mai. non me la danno mai, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Non me la danno mai. Sono simpatico. Sì, è simpatico. Dario Vergassola, ciao Dario. Buongiorno, come sono simpatico, buongiorno a tutti. In versione cantante, ma sai che su YouTube ci sono dei tuoi pezzi che sono clamorosi. Ma guarda, ho scoperto che c'è un gran mercato di tipo, io ho scoperto che c'è un vinile con un remix di Non me la danno mai, queste cose qua, che neanche io lo sapevo e mi vergogno per chi l'ha trovato, insomma, un pochino. Ma tra l'altro i tuoi fan hanno fatto anche dei montaggi molto divertenti. Io non so nulla, perché non vado in internet, sono ancora un po', sono rimasto vecchio. Ok. Quindi ok. DarioVergassola.it è il tuo sito ufficiale, tra l'altro cambia foto perché sembri un ragioniere, questo invece te lo devo dire io che in internet ci vado. Sarà anche quelli di 25 anni fa, sicuramente. Sono ancora quei capelli, tutto, come sono alto, ci mancherebbe. Dario, con te per raccontare un po' di cronaca locale, tra l'altro sfogliando la cronaca locale, proprio ieri sulla Gazzetta del Mezzogiorno si parlava di te perché eri in una piazza e hai fatto un incontro con i sindaci, mi sembrava anche una cosa di contenuto. No, era una cosa bella che fanno con Festa Ambiente, con questi Lega Ambiente, tra l'altro a Monte Sant'Angelo, a Foggia, dove c'erano dei gruppi reggae importanti, e poi c'era questa, perché è stato messo in questo patrimonio UNESCO, che è tutta la via dei Longobardi, che parte dal Veneto e arriva giù, quindi mi sembrava una cosa carina. Io è il secondo anno che ci vado e ho visto gente molto divertente, mi sono attaccato a una specie di chitarra a 10 corde che mi hanno insegnato a fare due accordi, ci sono dentro di Taranta fino alle 3 di mattina, quindi... Diciamo che sono un po'... Però posso darti una dritta, perché ho scoperto che sento che parlate di viaggi. Sì. Allora, siccome io sono partito da Monte Sant'Angelo, ho preso il treno, sono sceso, c'è traffico, sono salito sulla macchina a Bologna, sto andando a fare una serata che non mi ricordo neanche, che tipo Casciano a Terme verso Pisa, non so che ora arriverò, ho scoperto che sugli Appennini da Bologna a Firenze c'è un'arietta di servizio, che se ci vai ci saranno 30 piante di susine che sono mature, quindi lo dico per quelli che in questo momento sono in macchina. Cioè, gratis a go-go, sia quelle gialle che quelle rosse, fantastico. Questa è radio di servizio, che ci piace fare. Cavoli, cioè, le piante di susino, lo dico perché è importante. Dario, allora ho estrapolato per te 6 o 7 notizie, tra le più curiose che abbiamo trovato, proprio un commento rapido. Partiamo dalla Tribuna di Treviso. Questo è il titolo: appesa all'albero per 10 ore in bikini, una russa precipita col parapendio e chiede aiuto a Mosca. Vedi, a proposito di frutti buoni che dà la natura sugli alberi, cioè, guarda, io ho appena detto che c'è un albero di susine, non pensavo che tirassi quelle notizie già così, guarda, è orribile. Però vedi che a volte... L'hanno salvata, ma la questione è perché questa faceva parapendio in bikini, però insomma non approfondiamo. Ah, si dice, prendo il sole, sai, fa caldo, dove sono i russi? Lì? No, eravamo in Italia, ma... lei è russa. Ah, quindi, è partita in bikini, ha fatto un po' la bella gnocca, è partita, sì, e sì. Poi si è rimasta attaccata all'albero, non è male. Pensa il contadino che si è trovato magari in un momento che desiderava una donna, tipo voglio una donna, ti ricordi? Ok, si perfetto. È trovata lì anche legata, che è Livorno, non il Tirreno, male. Anche qui una donna protagonista, il titolo: donna chiama i pompieri, c'è un'iguana nel water. Sì, questa dell'iguana è fantastica, a vedere se è roba, chissà da dove è uscita tra l'altro questa iguana. Questa ritorna? Chissà che ce l'ha messa, ma c'era una cosa di parenti. Io ho la suocera dentro la vasca da bagno ogni tanto, ma non chiamo la deratizzazione, basta. Ok, il Gazzettino, siamo ancora a Treviso, il titolo: antiquaria trovata di notte in una casa con mobili antichi. Arrivano i carabinieri e lei dice: scusate, sono sonnambula. La giustificazione però è durata poco, perché aveva con sé cacciavite e arnesi da scasso. Avesse cose, se andava in giro per i tarli, ha senso, però una che di notte è come se un politico di notte andasse a rubare, capito? Fa un po' questo effetto qua, potrebbe essere sonnambulo in questi tempi, però magari ci vanno già di giorno, quindi di notte non ci vanno. Però non è male questa che parte di notte, perché un'antiquaria potrei prestargli la Dandini anche per capire, se non altro, sai che per 3 quanti anni la Dandini gli ho fatto fare il carbonio 14 del Risi di Parma, quindi potremmo anche capire dall'antiquaria se la svegliamo di notte. Possiamo dare una valutazione, no? Esatto. Sì, è roba antica vera questa. Firenze, questa ti piacerà, questo è successo in città, nel centro di Grosseto, la Repubblica di Firenze che la riporta, incursione hacker e l'infopoint del comune diventa hard, è accaduto su uno degli schermi con le informazioni per i turisti nel centro di Grosseto, invece delle informazioni appunto sulla città, immagini porno. E questo intanto secondo me l'ha fatto l'assessore al turismo di Grosseto, cioè che ha fatto finta di niente, ha fatto questa cosa qua. Ma è stato qualcuno del comune che andando a spelucare in qualche sito porno gli è rimasto, sai quelle cose che ogni tanto ti rimangono quelle cose terribili che non riesci più a uscirne fuori e non sai come fare, o butti via al computer, lui ha fatto questa cosa qua, finge che sono entrati gli hacker, sai quelle cose che dice a tua moglie, cara non pensare, non è come pensi, capito? Da sempre negare l'evidenza. Sei però bello. Probabilmente ci sarà un aumento di turismo a Grosseto. Io sto andando a Firenze, può essere che ci passi. Ecco, non avevo dubbi, dopo la sosta a Susine. Le ultime due, la prima dal mattino, il titolo, Napoletano fa pipì in strada e per evitare la multa si finge agente dell'antiterrorismo, sorpreso a fare pipì in pieno giorno, ha tirato fuori un paio di distintivi. Guarda, non voglio sapere cosa ha tirato fuori, perché per l'amor di Dio, insomma, siamo sulla G24 con questa serie. Hai ragione, scusami, però gli è andata male, perché oltre alla multa per la pipì l'hanno anche appunto denunciato perché aveva questi tesserini falsificati in tasca. Beh, però la gente strana ce la cercare, diciamo. La gente è strana. Uno così andrebbe interrogato, ma solo per capire cosa faceva da piccolo, cioè potrebbe essere il fantasma, uno che va in giro e dice che la gente è segreta, non è meraviglioso. Mamma mia. L'Alto Adige, siamo a Bolzano. L'ultima notizia che ho scelto per te era stupendo il titolo: fa le pulizie, resta incastrata nel letto. E siamo a Bolzano, sono passate da poco le 9 dalla strada, iniziano a sentire queste urla di aiuto, e chiamano prima i vigili, poi i pompieri, entrano. Questa donna stava cambiando le lenzuola nel letto, ma è rimasta incastrata. Guarda, secondo me un'altra visione tipo manette di una che ha dovuto giustificare perché è rimasta incastrata. E la cosa brutta è che non vorrei che fossero arrivati prima i pompieri, poi i vigili e avessero dato l'allarme dopo un paio d'ore, perché non vorrei approfittarne trovando una direttamente sul letto incastrata. Hai ragione, sai che non ci eravamo arrivati così in là, questa interpretazione. Certo, bisogna prendere, insomma, trarre il buono dalle occasioni. Insomma. Dario, tu prendi spunto dalla cronaca locale? Per io no, ma io prendo le cose sul giornale, sai, ci divertiamo a dire stupidaggini come sei. A volte basta aggiungere una cosa sul giornale, te leggi furto in casa Veltroni, la figlia dormiva, te basta che aggiungi tutto a suo padre e hai fatto la battuta, cioè quindi sono dei meccanismi che si usano. Però una cosa bella, così nei vostri viaggi che ho sentito, io stavo scrivendo una specie di taccuino anch'io, perché mia moglie dopo 28 anni di matrimonio ha tentato di portarmi a fare il famoso postale, capito, questo giro nei fiordi meraviglioso che ci devi andare con una fidanzata, non puoi andarci con la moglie dopo 28 anni, però detto questo siamo andati in questo posto qua, ce l'ha fatta, molto bella la nave, ci siamo divertiti, questi ragazzi ci siamo andati il primo di gennaio, perciò non ti dico cosa ghiaccio sui vetri, certo. È tutto molto romantico, per l'amor di Dio, molto divertente. Sono stato anche male, perché quando sei nei fiordi sembra un lago, ma quando esci c'è mare grosso. E ho tentato di fare anche io una specie di taccuino di viaggio, poi mi sono fermato perché una cosa che volevo dire alla gente, per esempio, non prendete la famosa slitta coi cani, che detta così è molto divertente, molto bella e molto. Però ho scoperto questo, che sei 2 ore a meno 20 che è notte, perché poi dice che c'è questo orario qua, sei a mezzogiorno, notte pesta, quindi ovvio. Sei in questo bosco che non sai dove sei. La slitta è un po' sottile, quindi sei con la schiena in terra, prendi quei colpi che non ti dico niente, ho trovato uno di Torino che guidava la slitta, quindi un momento di viaggio sembrava veramente come uno si fa gli acidi a Woodstock, sì. E mentre questa cosa, dei colpi terribili in terra, e poi ho scoperto una cosa fantastica, sentivo degli strani odori e cercavo di guardavo mia moglie come dire cosa sta succedendo, lei guardava anche me, poi sono i cani, cioè i cani da slitta corrono con la bocca aperta, mm-hmm. E quindi è come se andassero a reazione, cioè questi partono, assumono aria dalla bocca, corrono per 3 ore davanti, te sei dietro a 12 cani. Non ti dico cosa ti arriva addosso, cioè, capito? Questo sono rimasto sconvolto, coperto una specie di coperta di peli, e dentro di me mi sono detto, ma chi, cioè, sto alle 5 terre, che protezione non esco, capito? È un periodo buono per pescare d'inverno le seppie, perché sono finito in questa cosa qua. Il resto è stato meraviglioso. Sulla gita sui cani, ecco, io farei quelli da mezz'oretta. Però appunto si parla di esperienza sensoriale nel raccontare un viaggio, e tu questa esperienza l'hai fatta. Questa qua è da vedere, questo è da fare. Cioè, tutto sommato va vista, è molto divertente, ti portano in una tenda, ti danno tutto, i cani fuori che urlano al buio con questo il fiato nella controluce, e va benissimo tutto, poi quando partono però questi poveri cani giustamente hanno dei bisogni fondamentali e non possono smettere di correre, no, esattamente dietro sta coppiata di cani che ti dico, tu speri che sia neve ogni tanto. Invece ma no. Comunque Dario, guarda, ti salutiamo con questa immagine di te il primo di gennaio su una canna da slitta e dietro ai cani. Sto lasciando questa piazzola meravigliosa con mezzo metro di sogine per terra che nessuno raccoglie, è un vero peccato. Ecco, Dario Vergassola, Mine Vaganti. Ciao Dario, grazie, buon viaggio. Grazie per non mandarlo mai, allegro. Ciao, ciao, ciao. Mine Vaganti. In attesa di collegarci con Alex Bellini, 349-238-6666, se volete porgli delle domande in diretta potete mandarmele via sms, io farò da tramite. Rimaniamo ancora un attimo nella cronaca locale, come facciamo in ogni puntata, che andiamo a cercare una notizia curiosa da questa piccola Italia nascosta, che però ha cose da dire. E scusate, oggi andiamo in provincia di Aosta, a Introd, questo è il nome della località, dove una scoperta che è stata fatta casualmente potrebbe forse cambiare le sorti di questo piccolo comune. Con noi c'è il sindaco, do il benvenuto a Vittorio Angelsio. Buonasera Vittorio. Buonasera, buonasera a tutti voi. Cosa avete trovato? Dunque, il mio comune si chiama Entrò. Ah, scusa, ok. Invece di Introd, Introd si legge in italiano, Entrò vuol dire proprio che deriva dal francese Entrò, vuol dire tra le acque, Entre les eaux. Infatti il nostro comune è posto tra il torrente Savara e la Dora di Rem. Cosa abbiamo scoperto? Quindi noi abbiamo scoperto, c'è il nostro sovrintendenza ai beni culturali, facendo una valutazione di uno scavo archeologico, prima di darci una concessione, insomma, per un ampliamento di un edificio scolastico, ha fatto uno scavo e ha rinvenuto uno scheletro di una signora che approssimativamente è datata al terzo millennio avanti Cristo. Quindi è tipo la mummia di Ozi, no? Potrebbe essere una cosa simile. Potrebbe essere un contemporaneo della mummia di Ozi, cioè la mummia di Similau, che tutti noi conosciamo. Però c'è una differenza, che Ozi era stato trovato in un ghiacciaio, quindi sì, è stato conservato perfettamente insieme alla pelle, dei tessuti, a degli utensili che aveva con sé. Mentre invece questa nostra signora di Entrò, perché abbiamo battezzato così come signora di Entrò, proprio per segnalare uno il luogo del ritrovamento qui di Entrò, l'altro signora, perché dare l'importanza di questo ritrovamento di questa persona di sesso femminile. Certo. Probabilmente erano, come dicevo, della stessa epoca, però lei non ha nessun corredo insieme, non è stato trovato nessun corredo, ha solo lo scheletro, ma uno scheletro perfettamente conservato. Allora, ricordiamo che questo paese è nel Parco del Gran Paradiso, a una quindicina di chilometri d'Aosta, 630 abitanti, quindi un piccolo comune che però insomma spesso si è parlato perché è stata sede delle vacanze di Papa Wojtyła e anche Benedetto XVI credo sia venuto un paio d'anni, vero? Sì. Abbiamo avuto la fortuna, il nostro piccolo comune ha avuto la fortuna, come tutta la Valle d'Aosta penso, di poter ospitare per 10 anni Papa Giovanni Paolo II, che il 1° maggio è stato beatificato, certo, da Giovanni XXIII, da Papa Benedetto XVI, e per 3 anni invece anche il Papa Benedetto è venuto qui in vacanza da noi. Ecco, e questo insomma vi portava anche pubblicità, e certo, adesso da certo, sindaco pensi che si potrà sfruttare un po' questa signora, questo scheletro? Questa signora ci sta dando a livello mediatico un'enorme pubblicità, perché come dico tutti gli italiani, abbiamo avuto richieste di notizie da parte di tantissime testate giornalistiche nazionali, internazionali, e addirittura un giornalista ieri del Cile ci ha mandato un'email chiedendoci delle notizie, delle foto, dei particolari di questo ritrovamento. Cioè, quindi sicuramente Entrò, che diciamo che per aver avuto l'onore di ospitare i papi era già diciamo un pochettino famoso, ha avuto proprio la fortuna con questo ritrovamento di tornare sulle prime pagine dei giornali. Perfetto. Beh, Vittorio, insomma, è stato un colpo di fortuna, però adesso sta a voi sfruttare al meglio, ma nel giusto termine della parola, sfruttare questa occasione, che è sicuramente un ritrovamento molto importante. So che farai fare un sondaggio anche ai bambini per la scelta del nome, quindi insomma il coinvolgimento dell'intera comunità. Grazie davvero Vittorio, in bocca al lupo. Grazie di tutto. Grazie, ciao, ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Arrivederci. We're going back about 30 years of my days. I grew up around a lot of red dirt clay. Busted my back while baling hay in the heart of the Sooner State. Near a little town. town to copper sell. There for a while, then I said farewell. Headed out west where it's hot as hell, but the cactus grow tall and straight. I go back every now and then to think about the past, what might have been. E andiamoci, andiamoci in Oklahoma e ci andiamo con Alex Bellini. Ieri 35esima tappa, un po' di numeri, 2500 km percorsi, tre fusi orari cambiati, quattro stati superati, più di 300 ore di corsa nelle gambe, però siamo solo a metà strada perché oggi appunto sta correndo la 36esima tappa ed Alex Bellini è qua con noi. Ciao Alex. Enrico, buongiorno a tutti voi, che bello sentirvi. E voglio intanto dirvi che, insomma, farvi complimenti per la bella colonna sonora che mettete in onda prima dei collegamenti, e devo dire che è sempre molto azzeccata, quindi complimenti. È il nostro cost to cost musicale, no? Ti seguiamo. Alex, ma 36, quindi hai superato la metà e stai già pensando al ritorno a casa a questo punto? Sì, siamo a metà, perché la metà strada la raggiungeremo solo questa sera. La mia seconda metà della corsa, i prossimi 35 giorni ci vedranno impegnati in una distanza un pochettino più lunga, proprio matematicamente, però sì, insomma, siamo al giro di boa e da domani è tutta discesa. Che bello, ti aspettano solo 2500 km e in effetti sì. Questo è vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma come stai? Guarda, stiamo bene, in questo momento mi sono appena fatto bucare una vescica, ho fatto un po' di pedicure, perché insomma i piedi sono la parte del corpo più soggetta al logorio, quindi bisogna stare ben curati. Siamo in Oklahoma, se, come avevi detto bene tu, se ci fossimo sentiti la settimana scorsa ti avrei detto che l'Oklahoma era, a parere mio, la terra emersa più simile all'oceano che avessi mai visto, perché era una distesa piatta di terra bruciata, di campi di grano bruciati dal sole, e invece questa settimana la cosa è molto differente. Siamo arrivati in una zona molto verde, molto lussureggiante, no? Piena di saliscetto, ma cose piacevoli anche la vista, perché comunque siamo sulle nostre gambe per più di 10 ore al giorno, e se almeno abbiamo qualcosa da vedere, di guardare in giro, tanto di guadagnato. Assolutamente. 349-238-6666 per le vostre domande, ma alexbellini.it è il sito che vi consiglio di vedere, anche per le foto molto belle del fotografo che ti sta accompagnando, di cui mi sfugge il nome in questo momento, scusami Alex. Sì, Mauro Talamonti è il fotografo ufficiale, sta veramente facendo un ottimo lavoro, anche sta cercando di levarmi una maglietta. senza fare danni, no, insomma, siamo molto contenti, e le immagini raccontano molto di questo viaggio, del bello e del brutto che è del viaggio. Ecco, consiglio. Cos'è il brutto, Alex? Per ora il brutto a cosa lo associ? Forse il caldo? Allora, il brutto ti posso dire al tantissimo caldo, Federico. Io sapevo che avremmo incontrato condizioni di temperature molto molto alte, ma quando si parla di 42-45 gradi con un tasso di umidità pari al 60-70%, vuol dire che anche solo i pensieri in testa creano sudore addosso. Io bevo, fai conto, all'incirca 14-16 litri di acqua al giorno, e questo per anche contrastare la grande sudorazione, ma non è mai a sufficienza, perché arrivo a casa sempre con qualche chiletto perso. Però ecco, questo è veramente il brutto, un po' la noia nei giorni in cui non abbiamo niente da guardare se non le nostre scarpe, mentre c'è tanto bello, c'è una sfida che giorno dopo giorno prende corpo, c'è il piacere di stare assieme a delle persone che magari nella tua vita non avresti mai incontrato e ti scopri più simile a loro più di quanto credessi, e poi c'è il piacere di farsi un viaggio attraverso gli Stati Uniti. Ecco, ma questi incontri che vengono fatti sono incontri veloci, o lì nella foga della corsa trovi anche le forze per fermarti, che è paradossale, però credo che a un certo punto anche il fermarsi sia una fatica, e c'è la possibilità di fermarsi a parlare con queste persone che incontri? Sì, certamente, c'è la possibilità e c'è anche la necessità, che è qualcosa che si va ad aggiungere. La settimana scorsa abbiamo fatto forse fino ad oggi l'incontro più stravagante fatto finora, un americano, un uomo di 40-45 anni che viaggiava su un trattorino, quelli con cui si fa il sarba, no? Sì. Dei prati, che trasportava un piccolo trailer all'interno del quale c'era un cane, un gatto e un topo, e con questi tre animali lui faceva gli show attraverso gli Stati Uniti. Ma dico, ma che cosa ci fai qui in mezzo a niente, in mezzo a una strada? Niente, sto facendo prendere un po' di aria ai miei animali. Lui immagino che dormisse assieme a questi animali, quindi fate voi i conti. Sono persone molto strane, così, spinte dal desiderio di viaggiare, di chissà che cosa. Certo. Alex, arrivano domande, sono arrivate durante la settimana e stanno arrivando anche adesso, un paio su tutte. La prima, 70 tappe in 70 giorni, vuol dire pochissimo tempo per riposarsi. Tu fai una sorta di check-up quotidiano al tuo corpo, cioè arrivato al traguardo ti guardi e ti analizzi, ti studi? Certamente, abbiamo così tanto tempo da passare, come dicevo, di corsa, che non aspettiamo di arrivare al traguardo per analizzarci. È tutto tempo guadagnato, se si fa anche durante la corsa, nella necessità, come parlavamo qualche settimana fa, la necessità di ascoltare i propri messaggi, il proprio corpo, tutto ciò che ci rimanda. È importante anche per avere un contatto diretto con se stessi, perché poi alla fine la macchina va tenuta da conto. E quindi sì, al di là dei massaggi quotidiani che mi fa Simone, che è il preparatore atletico, tutti i giorni, ogni 4 chilometri ci fermiamo, ci consultiamo, capiamo se bisogna aggiungere un po' di acqua, se bisogna mangiare di più, se bisogna rallentare il ritmo. Siamo di corsa, però siamo specifici e molto tecnologici, in un certo senso, come un team da Formula 1, mi viene da dire. Certo, quindi dove ognuno ha il proprio compito e tutto comunque deve funzionare in maniera sincrona, no? Esatto, tutti insieme, sì, per lo stesso obiettivo. L'altra domanda invece è abbastanza ricorrente, tu sia da noi sia in altre interviste hai parlato anche di ipnosi che hai utilizzato durante la preparazione, e la stai utilizzando anche ora durante la corsa? Sì, altro che, sai, gli stati di ipnosi mentre si corre è molto, molto semplice viverli, anche perché non è richiesta nessuna capacità specifica, solamente la capacità di concentrazione. Ecco, se senti questo spruzzo, è l'acqua che mi viene spruzzata addosso come una pianta. Io prima o poi mi faranno le radici, mi cresceranno le radici, sì. No, dicevo, appunto, l'ipnosi è quella strategia che ti permette di focalizzarti esclusivamente su cosa stai facendo, sui tuoi passi, sulla tua sensazione, però proprio perché non va dissipata alcun genere di energia, va mantenuto lì e solo in quello stato hai il massimo rendimento che si può sperare di avere. Un'altra domanda invece, mi chiedono se in 2500 chilometri hai mai sbagliato strada. Ancora no, fortunatamente no, non abbiamo mai sbagliato strada. C'è chi, ahimè, l'ha sbagliata la strada, ma è subito stato riportato sulla retta via. Ho un team che si occupa anche di questo. Abbiamo tutti i giorni, ci viene consegnato un così, lo chiamano turn sheet, è una specie di roadbook su cui vengono segnate tutte le svolte, tutti i chilometri da fare, tutti i paesi da attraversare, quindi non c'è proprio la possibilità di perdersi. Beh, insomma, questo ci rincuora. Alex, cosa ti aspetta in questa settimana? In questa settimana ci aspetta un nuovo stato, che sarà il Missouri, che attraverseremo, che raggiungeremo o domani o dopodomani. Lasceremo l'Oklahoma, che è veramente ci ha reso la vita molto, molto difficile, raggiungeremo quindi delle latitudini superiori, speriamo di trovare meno caldo, ecco, e avere la vita un pochettino più semplice. Sappiamo che avremo ancora giornate difficili da superare, però ecco, una cosa per volta, intanto meno caldo è, più le cose saranno divertenti anche per voi, certo. Sì, allora noi prepariamo le musiche per la prossima settimana, va bene? Va bene, vi ringrazio. Federico, un grande saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao Alex, buona corsa. Ciao, grazie. Altrettanto, buona giornata a voi. Ciao. AlexBellini.it per seguirlo, ci sono aggiornamenti più o meno quotidiani, perché non è sempre facile aggiornarsi da là, la rete, anche negli Stati Uniti, se sei in mezzo alle grandi pianure, ha qualche buco, qualche defiance, ma noi siamo qua per accompagnarlo. Mine vaganti. Dalla casetta in trincea, po po po, anche se viene di avea, respirando in apnea, per non tradire nostra idea. In den Pool, den Pool, ah tu! A Mine Vaganti ci piace raccontare storie di chi fa anche cose stravaganti, ma se poi tra queste cose stravaganti c'è proprio l'idea di insegnare la storia, ci piace ancora di più. Miniature Attack, questo è il nome di un progetto particolare che è trasmettere i concetti, le date, gli eventi più importanti della nostra storia attraverso i soldatini. Proprio oggi, nel 150esimo anno dell'Unità Nazionale, si è svolto a Bezzecca una di queste iniziative, il titolo era Obbedisco, e l'ideatore del tutto è qua con noi e si chiama Massimo Bavieri. Ciao Massimo. Ciao, ciao, bella la sigletta sotto. Se ci sembrava la più adatta, no? Sì. Massimo, intanto subito, cosa avete combinato oggi? Eravate dove precisamente? A Bezzecca, che è una località di Ledro, provincia di Trento. Del Trentino, esatto. Qua abbiamo fatto il delirio oggi, è stato bellissimo, fantastico. C'era veramente sta piazzetta, Bezzecca è una piccola località montana, che ci sono anche molti villeggianti. Infatti era strano sentire accenti campani in pieno Trentino. E quindi niente, tra villeggianti e persone del posto, la piazza gremita, che giocavano la battaglia di Bezzecca tra Garibaldi e gli austriaci. Ecco, perché la tua idea è proprio quella di far giocare la storia per capire la storia, per scoprirla. Esattamente, io sono partito dall'idea che quando uno si immedesima in una cosa, trovi il modo di creare empatia, no? E quindi uno, se si mette nei panni del comandante piuttosto che dello stratega o del politico, allora riesce a capire meglio le cose. Ed ecco che nel gioco, che diventa una specie di gioco di ruolo, comunque con i soldatini, perché poi sul tavolo tutto viene riprodotto in miniatura, e muovi le truppe, muovi i personaggi. Quindi Garibaldi c'era proprio fisicamente, c'era la miniatura di Garibaldi in carrozza, perché nella battaglia di Bezzecca fu ferito ad una gamba, okay, e quindi non ufficiale. Poteva andare a cavallo, e quindi certo. Ho spiegato tutto questo, quindi facevo vedere Garibaldi che era sulla carrozza, gli spiegavo perché era sulla carrozza e invece che a cavallo. Ma quindi quanti soldatini in campo c'erano oggi? Centinaia, avrò messo giù un delirio, saranno stati più di 1000 soldatini. E quindi l'idea è, quindi studi la storia, cerchi di mantenere il massimo, essere fedele a quelli che sono i fatti storici, ma poi nel giocare la storia si può cambiare o bisogna appunto... Guarda, di solito le cose ritornano come erano state. Sembra incredibile, perché avancarica, miniatura attacca è il progetto generale, no? Sì. Di andare in giro, in tournée, fare queste cose. Poi per fare questo abbiamo creato avancarica, scritto con la K, che sarebbe avancarica è il fucile che si carica dal davanti, quei fucili antichi, sì, no? A polvere da sparo, perché si chiamano fucili ad avancarica, e da questo prende il nome, perché usiamo quel periodo lì. E avancarica è il gioco, proprio abbiamo studiato il gioco, il regolamento di gioco, che riesce sicuramente a riprodurre fedelmente quello che accadeva davvero tra il 1700 e il 1800 sui campi di battaglia. E ogni volta è dimostrazione, perché anche oggi qua a Bezzecca è finita che non si è ben capito se hanno vinto gli italiani o gli austriaci, come poi in realtà fu così, insomma non si capisce bene chi ha vinto, chi non ha vinto. No, è bello, bello, ha funzionato anche stavolta. Perfetto. In chiusura, di solito, cioè, coinvolgi i bambini, ma poi sono gli adulti che vengono a giocare, vero? Immagino, sì, che sia, sì, così. Sì, sono quelli che si infervorano anche di più delle volte. Sì, eh? Ma sì, perché, sì, vorrebbero cambiare la storia o non se la ricordano e quindi improvvisano? No, vorrebbero semplicemente vincere. Quando sai, cominci a tirare i dadi e vuoi vincere, è un po' come quando giochi a carte a briscola, insomma, ti dà fastidio perdere. Certo. Grazie davvero Massimo per averci dato un assaggio della tua attività. C'è un sito internet per chi volesse conoscere? Sì, c'è un sito internet, io preferisco usare Facebook perché lo trovo più interattivo. Sì? Comunque abbiamo una pagina Facebook che è Miniature Attack con la K, poi abbiamo un profilo Facebook che è Avancarica con la K Miniature Attack tutto attaccato, e poi invece sul web c'è www.rollershow come spettacolo all'inglese. Perfetto. .it/miniature. Benissimo, adesso vai a raccogliere tutti i tuoi soldatini? Sì, abbiamo appena finito, io e i miei aiutanti li stiamo raccogliendo adesso e stiamo mettendo via il boschetto, la casetta, la fattoria, tutti questi elementi scenici molto molto belli da vedere, accattivanti, sembra un presepe, insomma. Bellico, ma un presepe bellico. Grazie davvero, ciao Massimo, ciao. Grazie a te, ciao. Rimaniamo sempre in tema giocattoli, la sapete, ogni puntata di Mine Vaganti chiude con una mina vagante musicale, artistica. Ci piace trovare chi fa musica anche in maniera divergente. Beh, stiamo ascoltando qualche brano della Playtoy Orchestra, l'unica orchestra al mondo, credo, dove vengono suonati solo giocattoli, e con noi c'è l'ideatore del tutto. Diamo il benvenuto a Fabrizio Cusani. Ciao Fabrizio. Buonasera, ciao a tutti, ciao Federico. Ma quindi non siete veri musicisti, quindi avete trovato un modo per poter fare musica, o l'idea è stata proprio quella di applicare la vostra arte ai giocattoli? Siamo un gruppo di amici, siamo dei musicisti, siamo dei professionisti, e l'idea è nata perché io ho 12 nipoti e quindi va da sé che mi trovo in casa tutto il segno dei loro passaggi, quindi giocattolini di tante sui muri e cose varie. E quindi il gioco è stato raccogliere questi giocattolini e di invitare i miei amici musicisti. Uh-huh. E ne è stato tratto poi un piccolo laboratorio, un disco che, guarda caso, abbiamo presentato proprio in radio come prima volta nel 2004. Perfetto. Sì. Ecco, per esempio, scusa se ti interrompo, adesso ascoltiamo insieme. Ecco, facci vedere cosa sta suonando in questo momento. Allora, si sta suonando una tastierina che è quel suono più basso. Sì. Che inizia questa sol bossa 9, una tastierina di quelle a batterie, una tastierina di quelle che puoi suonare un tasto alla volta perché non ha polifonia. Ok. Quindi l'orchestratore qui è particolarmente importante farla a priori e studiarla bene. E tra l'altro sono di quelle tastierine che quando si scarica la batteria cambia anche l'altezza del suono. Oh, è vero. Quindi questa è la nostra prima performance dal vivo. Corrimmo a casa di nuovo a prendere le vecchie batterie che avevamo cambiato, perché c'era cambiato la strumentazione, c'era cambiato il suono. Quindi la tastierina, e poi? Poi c'è una piccola chitarrina di quelle buontempine, molto molto piccola. Okay. Che viene suonata. Poi c'è una batteria di plastica e cartone che è suonata tra l'altro da un batterista che è Marco Pietrantonio, che è di 1,90 m, la batteria è di 35 cm. Infatti la band, oltre che ascoltare, è anche da vedere. Sì, immagino, perché avrete un suono delicato, perché poi tornate bambini. Comunque diamo il sito intanto, che è fabprod.it, perché oltre alle foto ci sono anche dei video. Aggiornato è proprio playtoy.it. Ah, perfetto, ok, scusami. Ci sono anche i video, perché siete davvero davvero divertenti. Siete una decina i componenti, 8? Siamo in sette, diciamo, nelle performance dal vivo. Poi ci sono vari amici che hanno collaborato, che collaborano, insomma. E quindi c'è anche sempre un ricambio quando è necessario. Tournée mondiale, di fatto, avete suonato ovunque. Siamo delle vere mine vaganti, è vero. Fortunatamente questa idea rimane molto originale, tant'è che ci hanno invitato, così come hai appena detto, dalla Corea del Sud alla Colombia, dal Portogallo all'Albania, Polonia, Tunisia. portando sempre i nostri giocattoli in valigia, perché questo è uno dei vantaggi dell'orchestra. Questo è vero, è molto, magari qualcuno di scorta, perché immagino la batteria di plastica suonato dal batterista di 1,90 m subirà anche dei danni, però siete assolutamente colorati e avete qualche progetto nel cassetto, qualcosa? Sì. Ci puoi anticipare, allora, qualcosa? Stiamo preparando un nuovo disco, perché il primo disco era di lounge music, per intenderci di sigle televisive, jingle pubblicitari famosi, musica comunque che è nelle nostre orecchie da molti anni, e questo perché? Proprio per creare questa alterità, mostrare questa alterità sonora di questi giocattoli, dei suoni fantastici. Ultimamente invece ci siamo dati alla musica classica. Fantastico. Ma si parla di Mozart, si parla di Beethoven, Rossini. Musica classica che è riuscita a fare anche coi giocattoli. Quindi ci sarà un disco, e quindi noi ti invitiamo, perché vorremmo essere tra i primi a fare ascoltare il prodotto del vostro lavoro, ok? Questo è un grande onore, grazie. Ciao Fabrizio, grazie davvero. E con questa musica giocattolosa chiudiamo la puntata di oggi di Mine Vaganti. Un grazie a Margherita Ina, che con me ha scritto la puntata, ad Alessandro Balli in assistenza, insieme a Pietro Lacorte la parte tecnica, e l'appuntamento è a domenica prossima. Da domani in podcast sul sito radio24.it, oppure ci trovate nelle nostre pagine in Facebook. Ancora ciao da Federico Taddia.